Europa 24. Si è concluso il vertice Europa-Africa, lo sentivamo anche poco fa in effetto giorno alla Valletta, Malta, in diretta qui con noi Sergio Nava. Sì, buongiorno, concluso dunque il vertice euro-africano che sarà seguito, lo ricordiamo, nel pomeriggio in serata da un summit ristretto dei 28 leader europei sempre alla Valletta. Investimenti nello sviluppo e sradicamento della povertà, promozione di canali legali per l'immigrazione, rafforzamento della protezione per i rifugiati, prevenzione e lotta contro l'immigrazione irregolare e i trafficanti di uomini, infine accordi di cooperazione per i rimpatri dei migranti. Sono questi 5 punti, in buona parte un catalogo, diciamo pure, di buone intenzioni del piano approvato all'unanimità dai 60 leader europei e africani all'interno della dichiarazione politica sull'immigrazione. Occorrerà vedere adesso quali fatti seguiranno questi impegni. Per il momento c'è solo il 1,8 miliardi che la Commissione europea ha messo a disposizione per il nuovo fondo fiduciario di emergenza per l'immigrazione. Quasi 2 miliardi, insomma, che nelle intenzioni dovrebbero essere raddoppiati dai contributi dei paesi comunitari. Al momento però dal versante nazionale arrivano solamente 81 milioni di euro. Nella conferenza stampa finale il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha detto che saranno facilitati i rimpatri, preferibilmente su base volontaria, che team dei paesi africani viaggeranno verso i paesi europei per identificare coloro che si trovano in condizione di illegalità, e soprattutto Tusk ha detto: salvare Schengen è una corsa contro il tempo, siamo determinati a vincere questa corsa, perché, spiega, senza controlli effettivi ai confini europei le regole di Schengen non sopravviveranno. Infine c'è la Angela Merkel che dice: col vertice della Valletta è iniziata una nuova fase fatta di cooperazione, di condivisione di responsabilità, anche se, riconosce la Merkel, c'è ancora molto lavoro da fare. Sentiamo invece adesso cosa ha detto il Premier Matteo Renzi questa mattina arrivando alla seconda giornata del vertice. Per noi non è soltanto l'immigrazione, ma è la relazione Italia-Africa. È una strategia che porta alla prima visita del Serie a Tunisi, prima visita del nostro governo, che porta a fare più viaggi in Africa, più accordi bilaterali con i singoli paesi, e oggi l'Unione Europea comunque si prende su di sé con un esborso significativo il tema di un rinnovato rapporto tra Europa e Africa. Al Parlamento europeo ringraziamo naturalmente Sergio Nava per averci informato sul vertice Europa-Africa. Passiamo invece alla pagina economica. Al Parlamento europeo le parole del presidente della BCE, Mario Draghi. Many actions have been undertaken, many more will be undertaken in the future. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha ripetuto poco fa in un'audizione al Parlamento europeo che il prossimo 3 dicembre, alla riunione del Consiglio, la BCE esaminerà di nuovo la propria politica monetaria. I mercati finanziari hanno già interpretato le parole di Draghi come la possibilità che lo stimolo monetario che la BCE ha applicato finora venga ampliato e possibilmente allungato. Draghi ha fatto esplicito riferimento al QE, cioè agli acquisti di titoli pubblici che la Banca Centrale fa ogni mese per 60 miliardi di euro. Draghi ha inoltre detto che c'è la possibilità di usare altri strumenti, anche se non ha parlato di ridurre ulteriormente il tasso sui depositi delle banche presso la BCE stessa, che è un altro strumento che i mercati vedono come abbastanza probabile. Fra gli elementi che contribuiranno alla decisione della BCE, ha detto Draghi, ci sono le proiezioni dello staff sulla crescita e l'inflazione, e queste si ritiene che verranno riviste al ribasso. Quindi è possibile che un maggior stimolo monetario da parte della BCE si avvicini, stando alle parole di Draghi questa mattina al Parlamento europeo. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.